Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Priscilla e Olga. Ben ritrovate e ben ritrovati sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko. Questo è sempre Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. E oggi, che è appunto sabato pomeriggio, siamo quasi alla vigilia del giorno del ricordo. Che cos'è questo giorno del ricordo? Perché non lo sa nessuno, secondo me. Noi facciamo pubblicità. che sarà il 10 febbraio e poi, come ci spiegherà meglio la nostra ospite, è il giorno in cui si ricordano le foibe. I cosiddetti martiri delle foibe. E quindi noi abbiamo delle storie complicate da ricostruire ogni volta, perché come sapete ogni anno è un argomento che ci appesantisce, cambia il peso specifico delle cose, diciamo. Esatto, come ci dirà Viola Santi, che è la nostra ospite, come dice la legge che è stata istituita nel 2004, il giorno del ricordo delle foibe, degli esuli e delle complicate davvero situazioni del confine orientale. È proprio del confine orientale da cui si deve partire per fare una ricostruzione storica. Questa cosa non è avvenuta, è avvenuta solo in parte, o meglio, ogni volta dal 2004 che c'è il giorno del ricordo, quindi che istituzionalmente si celebra questo anniversario, movimenti di estrema destra attaccano gli storici che vogliono semplicemente fare il loro lavoro, cioè contestualizzare quello che sono state le foibe, che poi in realtà sono semplicemente degli insediamenti carsici che sono tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, e che cercano di contestualizzare il caos, perché si poteva chiamare così, che c'è stato nel confine orientale, nella Seconda Guerra Mondiale, ma anche dopo e anche prima. E a proposito di questo, c'era stato mercoledì scorso, quindi siamo al 4, un seminario sull'AMPI, perché negli ultimi anni molti storici, molte associazioni si stanno muovendo, non lasciando solo alle destre la narrazione di questo evento. Come si stanno muovendo? Si stanno muovendo contestualizzando quello che è il confine orientale. E ci sono state mosse molte critiche a questo seminario di Roma, e sono state mosse molte critiche sempre da parte di gruppi, groppuscoli, movimenti di estrema destra, anche a uno storico che ogni anno, lui parla, è un esperto di confine orientale ed fa i laboratori nelle scuole, e poi anche Viola poi ci racconterà della sua esperienza, ed Eric Gobetti. Esatto, infatti. Allora, non so se l'avete magari letto, penso che i social l'hanno fatto girare tantissimo negli ultimi giorni. Abbiamo questo articolo del 6 febbraio, quindi di questa settimana, della Repubblica, che pubblica una lettera proprio scritta da Eric Gobetti, perché è entrato nel mirino, come diceva bene Olga, dell'estrema destra e dei gruppi di esuli istriani per il semplice fatto di partecipare a un convegno organizzato sulle foibe e parlare delle foibe. Parlare delle foibe, se non sei di destra, viene immediatamente tradotto come sei un negazionista. Il fatto di contestualizzare per la maggior parte appunto di questi gruppi di estrema destra, ma anche per i loro organi di stampa come Primato Nazionale, Casa Pound, insomma il quotidiano sovranista, come si definisce, semplicemente contestualizzare quel territorio, il contesto, dare appunto un respiro più ampio al contesto di guerra civile sul complicato confine orientale o occidentale, se visto dall'altra parte, perché esatto, sono storici che lavorano su entrambi i fronti, non è che parlano solo appunto di quello che è successo da questo lato del confine, semplicemente parlarne conduce a un'accusa di negazionismo. E Alessia, scusami, a proposito di questo, c'è un altro bell'articolo, tu citavi Repubblica, sì, io ti cito Il Manifesto, in cui un altro storico, Davide Conti, sì, ci parla di populismo storico. È esattamente quello che dice Alessia, cioè contestualizzare ed è quello che fanno gli storici, in questo caso per le foibe, che è stato sempre, poi come ci dirà anche Viola Santi, c'è stata una riemersione delle foibe. Questo evento poi è stato narrato solo tramite testimonianze private, senza fonti storiche, è stato narrato prima a est, quindi era una storia locale del Friuli Venezia Giulia, e poi pian piano dagli anni 80-90, anche con l'istituzionalizzazione della giornata del ricordo e con l'entrata di Alleanza Nazionale all'epoca nella compagine governativa, e infatti sono stati loro che avevano proposto questo, e come se volessero equiparare in qualche modo le stragi naziste a quelle titine. Sì, esatto. Esatto. Però rimane comunque, prima di passare, a me mi è piaciuto molto dell'articolo, del pezzo che ha pubblicato Gobetti, Eric Gobetti, a cui va tutta la nostra solidarietà e stima. Esatto. E anche a Davide Conti, ovviamente. E mi piace citare un pezzo che lui ha scritto, che è molto interessante. Dice: rimane però inaccettabile il fatto che un piccolo gruppo di estremisti possa impunemente minacciare di impedire fisicamente una lezione di storia. Che questo sia chiaro, perché comunque noi di Vallun siamo molto di parte su questo, nonostante la nostra capacità di essere anche degli storici che guardano le fonti. Mi ritengo offeso, dice, e credo di poter agire anche in termini legali in merito all'associazione tra il mio nome e il termine negazionista, perché anche questo è un aspetto interessante. È già abbastanza paradossale, scrive, che gruppi di persone assimilabili alla galassia realmente negazionista, in questo caso della Shoah naturalmente, si permettano di usare questo termine capovolgendo il significato, ma quello che più conta è che questa accusa infamante è del tutto infondata. Io non ho mai negato né sminuito l'importanza storica delle foibe dell'esodo. Grazie Alessia, grazie Enrico Betti, a cui vi dà ancora la nostra solidarietà. Noi ci vediamo dopo, perché adesso partiamo in musica con un bel pezzo punk di un gruppo sloveno che si chiama Pancarti. Služba, Janez hoče bit doma, Janez hoče pit več čaja, Janez kljub benzin za kva. Pokojna revolucija za njega ni rešitev, Janez kljub benzin hoče samo bogatitev. Pokojna revolucija za njega ni rešitev, Janez kljub benzin hoče. Samo, samo, samo potrditev. Bentornati su Radio Città Fucico, questa è Vallune della vostra mezz'ora di storia. Come vi ho già anticipato, questa è la settimana del ricordo, e con noi per parlare di questo argomento scottante, cioè le foibe e il confine orientale, abbiamo con noi una storica. Ciao Viola. Ciao Olga. Viola, grazie. Santi è una storica, si è occupata molto di confine orientale e fascismo, ha fatto laboratori per le scuole ed è quindi una persona molto coraggiosa, ma poi magari ce ne parla, e volevamo parlare con lei appunto delle foibe, non del fenomeno storico, scusami, tra virgolette, in sé, ma della riscoperta delle foibe. Perché riscoperta? Perché è un fenomeno storico avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, ma che è stato riscoperto dall'opinione pubblica negli ultimi anni, specialmente da quando c'è stata la legge del 2004 sul ricordo. La riscoperta delle foibe perché si è arrivata a questo iter. Viola, ci racconti un po' come si è arrivati proprio a questo iter di cui oggi, ecco, abbiamo le celebrazioni? Sì, certo. Allora, come dici giustamente tu, si può parlare di riscoperta. In realtà anche nei primi anni 50 se ne parlava di questo fenomeno, se ne parlava però a livello più locale, quando dico locale intendo area friulana, certo. Perché appunto le cosiddette foibe, che in realtà io preferisco sempre parlare di vicende del confine orientale italiano, perché quando si parla di foibe si entra un pochino in contrapposizione con termini tecnici, perché sì, la foiba tecnicamente è l'insinuamento carsico, sì, è proprio un buco, quindi nella roccia, molto profondo, ed è un insinuamento carsico tipico dell'area appunto carsica. Una cosa di geografia più che di storia. Esatto, esatto. E però appunto quando si parla di confine orientale ormai non si parla più della vicenda e quindi dell'area e di quello che era poi il confine di fascismo di confine, ma si parla delle cosiddette foibe. Foibe che tornano proprio alla ribalta nella dialettica nazionale popolare a partire dal 2004. Quando fu appunto approvata la legge del 30 marzo 2004, che è la legge per la giornata del ricordo. E la giornata del ricordo, che appunto citando il primo articolo ci dice che la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo al fine di osservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale, parte che normalmente appunto dimentichiamo un pochino di narrare. Cioè queste cose che tu hai citato, proprio la legge, cioè, possono essere messe in correlazione oppure sono un po' vaghe come... No, vanno assolutamente messe in correlazione, nel senso la legge è una legge che vede la sua attuazione alla terza presentazione e la cosa appunto che non è casuale è che la prima volta che venne proposta la legge fu proposta nel 96, quindi da esponenti di AN, quindi all'Alleanza Nazionale, che all'epoca era guidata da Gianfranco Fini, quando Alleanza Nazionale era diventata forza di governo con il governo Berlusconi del 94. E in questo contesto Alleanza Nazionale, quindi ex reduci del Movimento Sociale Italiano. All'epoca ancora vivi, immagino, qualcuno. Sì, esatto. E entrano appunto come forza di governo e impongono, fanno la richiesta per questa prima disegno di legge che vedrà la sua approvazione solo dopo appunto 8 anni, quindi nel 2004. E che una volta avuta la legge approvata vede appunto una festa collettiva da parte di tutti i vari gruppi di estrema destra, non solo di Alleanza Nazionale. Perché? Perché questa legge porta con sé una forte carica identitaria nazionalistica. Fondamentalmente le istanze di chi poi richiedeva il riconoscimento del giorno del ricordo, soprattutto per quanto riguardava gli esuli Giuliano Dalmati, erano gruppi facenti parte di partiti di estrema destra con forte sentimento identitario nazionale di italianità, quell'italianità che nell'Italia repubblicana non veniva riconosciuta. Quella che va di moda adesso, immagino. Esatto, quella che va di moda adesso. Quindi sono stati dei precursori. Dei precursori, ecco. che è stata ripresa attualmente da gruppi come Casa Pound Italia. Infatti se si fa un giro appunto sulle pagine Facebook banalmente dei vari gruppi sparsi in Italia di Casa Pound Italia, è facilissimo trovare striscioni dove ci sono frasi appunto inneggianti ai martiri delle foibe, sì, ai esatto, famosi martiri delle foibe. Una narrazione, scusami, a metà tra la memorialistica di qualcuno che pare sia sopravvissuto a queste fobie lasciò dei diari, se non sbaglio, e giornalisti e poco altro, perché la vicenda è complessa, come dice la legge. Esatto, la vicenda è molto complessa e c'è questo lato legato principalmente al ricordo privato e quindi si mette davanti alla storia, al contesto storico, alla ricostruzione, si mette davanti il ricordo personale, il ricordo privato, il ricordo di memoria, soprattutto il ricordo tramandato. Ed è molto semplice che ci si imbasta in convegni organizzati da familiari delle vittime che riportano una memoria personale. Il problema è che poi questa memoria si pretende di farla passare per storia, certo, senza il supporto delle fonti, che sono appunto la base della ricerca storica e della ricerca scientifica. Che dicono che non è stato un olocausto, questo delle foibe. Che dicono che non è stato un olocausto, la fonte. Esatto, quello è il punto. I numeri, diciamo, sono abbastanza differenti, diciamo che tutta la parte appunto legata ai vari gruppi di Casa Pound e di estrema destra continuano a parlare di 10-12 mila vittime nelle foibe. In realtà sappiamo che i numeri sono decisamente inferiori e ci sono stati appunto dei calcoli basati appunto su dati, su fonti reali, su ritrovamenti reali che ci riportano su cifre che si aggirano sui 400. Tra l'altro appunto all'interno di questa grande narrazione viene fatto un miscuglio fra quello che è stato le foibe, che poi andrebbero suddivise in due fasi, perché esistono le foibe del 43 e le foibe del 45, quindi sono due fasi che si sviluppano in contesti storici ovviamente differenti, no? Cioè, 43 parliamo dopo l'armistizio, certo. 45 parliamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, durante 40 giorni di occupazione di Trieste da parte delle brigate jugoslave, quindi dei Ticini. E poi di quello che è l'esodo dei Giuliano Dalmati, che è ancora un'altra storia. Questi tre eventi vengono messi insieme e vengono raccontati come fossero un unicum, e questo è un problema, diciamo, nella narrazione. Certo, un putpurri di fatti sostanzialmente. E poi è vero che le vicende del confine orientale sono veramente complesse. Ho provato in questa settimana io a farci a leggere qualcosa e sono veramente complessissime, perlomeno per me che non so molto. Ma io ti volevo riportare un'altra cosa, Viola. Te il 10 febbraio, proprio il giorno del ricordo, uscirà un articolo sul lavoro culturale che Balloon ha letto in anteprima. Ci racconti brevemente di cosa hai parlato, perché hai parlato di una cosa particolare. Io sinceramente non la sapevo, che questa corsa del ricordo che si fa a Roma. Sì, che esatto. Si fa Bologna, allora, direi di no. Che cos'è? Allora, la Corsa del Ricordo è una, diciamo, un'iniziativa sportiva che viene organizzata all'interno del quartiere Giuliano Dalmata di Roma. E il quartiere Giuliano Dalmata era uno dei vari centri che in Italia fu adibito a centro di arrivo degli esuli. Di accogliere gli esuli, ok. Sì, esatto. E questa corsa in realtà è arrivata al settimo anno della sua, è la sua settima edizione questa. E niente, viene organizzata per ricordare il dramma degli esuli e delle vittime delle foibe. È una cosa istituzionale, scusami, ci sono delle istituzioni che lo organizzano. Esatto, è una cosa istituzionale, è patrocinata dal Comune di Roma, è patrocinata dal CONI, è patrocinata dalla Federesuli e dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia. E perché a Roma? A Roma si fa perché c'è il quartiere, mi hai detto. A Roma si fa perché c'è il quartiere, si fa all'interno dell'area del quartiere, sì. Giuliano Dalmata, perché tra l'altro il percorso prevede il passaggio nell'area della Cecchignola. L'area della Cecchignola è un'area militare ed è interessante questa unione di elementi tra l'elemento militare e l'elemento legato a, appunto alla Corsa del Ricordo. Perché sottolineo questa cosa? Perché diciamo che molti dei appartenenti al gruppo esuli o che comunque si fanno portavoce dei diritti degli esuli e di chi appunto ha subito l'esodo è molto vicino all'ambito militare, sia per scelta politica che per anche alcuni per scelta di vita, cioè, alcuni sono proprio militari. Tu dici che non è un caso? Diciamo che sarebbe una cosa, è una cosa da indagare, ecco, mettiamola così, è una cosa da portare avanti nella ricerca. Ti chiedo anche quest'altra cosa, basta spoiler di lavoro culturale, l'articolo esce il 10. Il 10 febbraio sul lavoro culturale, ma poi noi lo ricordiamo anche sul sito www.radiovallun.info. L'ultima cosa, Viola, tu hai fatto anche dei laboratori, dicevo prima, per le scuole sul confine orientale, quindi ti sei confrontata con i giovani, esatto. Giovani. In due battute, com'è stata questa esperienza di un tema così scottante, appunto, perché non è raro, mi pare, che qualcuno faccia dei laboratori su confine orientale. Per adesso è raro, però dimmi se sbaglio. Diciamo che è diventato, allora, quando ho iniziato io era abbastanza raro, perché io li ho fatti un po' di anni fa, e adesso sta diventando un pochino più, non dico istituzionalizzato, però con il fatto che esiste la giornata del ricordo, che prevede anche appunto che le scuole e gli istituti pubblici organizzano degli incontri che possono essere di vario genere, le scuole si stanno un pochino organizzando in tal senso. Quando l'ho fatto io sicuramente non era una cosa che accadeva spesso. E io ho avuto la fortuna di farlo in Emilia e a Bologna, ma non solo, ed è stato folgorante, devo dire. Nel bene o nel male, però? Come? Folgorante nel bene o nel male? Positivo o negativo? Sia nel bene che nel male, perché mi sono trovata davanti a un gruppo a molti gruppi di giovani che diciamo erano molto prevenuti, perché appunto si aspettavano che io andassi lì a raccontare il dramma delle vittime delle foibe, e invece io sono andata lì a fare una contestualizzazione, e quindi insomma partendo da almeno dal 1919 e quindi raccontando quali erano state le vicende dell'area del confine orientale, quindi parlando per esempio della italianizzazione e poi fascistizzazione forzata, parlando degli espropri da parte dei fascisti nei confronti di tutti quelli che non erano italiani, parlando delle violenze, degli incendi, e tutto questo insomma ha creato non poco sconfitto e scalpore tra i ragazzi. Qualcuno si è molto offeso, qualcuno ha ringraziato. E è stata sicuramente un'esperienza formativa, credo prima di tutto per me, perché appunto mi ha messo davanti a una realtà che fino a quel momento non mi era forse chiara, perché si parla di questi argomenti in maniera sommaria e le uniche informazioni che arrivano attraverso la televisione. Certo. E quindi insomma tutto quello che ne può conseguire, ecco. Certo, senti Viola, grazie tantissimo, grazie da parte di Vallun, da parte mia, quello che posso dire è continua a parlare di fobie, continuiamo a parlare delle complicate vicende del confine orientale, e grazie mille. Ringrazio te, ringrazio Vallun e veramente grazie a voi per il lavoro che fate. Ci mettiamo un po' però, dai, grazie. Dai. Grazie ancora a Viola Santi per essere stata con noi. Vi ricordiamo che il 10 febbraio ci sarà il suo articolo sul lavoro culturale la nostra puntata si può risentire da lunedì in poi su www.radiovallun.info. Poi Ale, c'è una novità, vero? Invece abbiamo una novità, siccome ci siamo presi benissimo a fare l'autofinanziamento al Circolo Anarchico Berneri a dicembre con i Nabat, presentazione dei libri sul punk eccetera. Storica serata. Storica serata, proprio indimenticabile, la vogliamo fare di nuovo in forma molto più socializzante, mangereccia che musicale, e quindi ci vediamo il 24 di febbraio sempre al Circolo Anarchico Berneri per una nuova cena tutti insieme di autofinanziamento di Vallun, delle nostre attività radiofoniche di ricerca. Quindi venite affamati. Accorrete. Ciao. Ciao.